Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona domenica. Cosa mi ride, a tutti. No, perché, Celentano, cosa mi ride? Perché siamo in un contesto veramente particolare. Sì, infatti, buona domenica a tutti. Siamo al Salone dell'Auto a Torino, al Parco del Valentino. Qui vedo un laghetto, anatre, cavalli che passano. Cavalli, bellissime macchine, bellissime donne. Preferisco, no? Ipnotizzate da queste auto. Ecco, tu, no? Invece guardavi le auto, guardavi le donne a fianco alle auto. No, che solitamente guardavo le sono auto così. Perché sono... Certo, sono molto... certo. Io mi sono sempre domandata, ma se uno vuol far notare un'auto, perché ci mette una gnocca di fianco? Poi uno guarda la gnocca e l'auto ciccia. Eh no, e poi, capito, lo sguardo si sposta, diciamo. Sì, sposta velocemente. No, ma ti fa capire qual è la funzione dell'auto, no? Che è ipnotizzare la vulva. No, vabbè, ragazzi, cioè, non ho parole. Vabbè, guarda, cioè, il nostro professore giro, ha fatto te... uno scivolone. Amore, tu non devi non, basta, lascia ipnotizzare niente sta, perché sei fidanzato. Ascolta Balasso, Natalino Balasso, ascoltate Balasso che vi spiega per bene come funzionano queste cose. Ecco, qui. Ascoltate Balasso, però adesso ascoltate noi, io volevo iniziare subito. Lanciamo il nostro jingle del GR Quattro Zampe. Notizie a quattro zampe. Oh, allora. Notizie commentate, direi. Notizie non è che non vi aspettate il GR fatto. No, intanto ricordiamo la nostra mail per chi volesse scriverci, che chiedimi se sono felice, @radio24.it. Allora, sei diventata veloce nel dire. È come sono una DJ radiofonica, amore. Allora, voglio dire, non possiamo non parlare di quello che è successo a quello splendido esemplare di Harambe, il gorilla di 17 Harambe. Anni. Harambe, il gorilla di 17 anni, perché è stata una vicenda veramente abbastanza brutta. Sì. Sotto tutti i profili. Ho letto un po' di interviste, di articoli che tu mi hai mandato da parte di Mark Beckhoff. Sì, no, vabbè, ma, cioè, insomma, Mark dice una cosa, cioè cerchiamo se non altro di rendere significativa la morte di questo Harambe, perché ha avuto un effetto. Meno male, speriamo che sia un effetto positivo. Quindi per chi non abbia ascoltato la vicenda, nello zoo di Cincinnati un gorilla di 17 anni è stato ammazzato. Rarissimo perché, gorilla. Sì, una specie abbastanza rara. Un bambino è caduto lì dove c'era, in questa fossa dove tengono questi gorilla. Il gorilla si è avvicinato e per tutelare il bambino, anche se il gorilla non stava facendo nulla, cioè era lì quasi a proteggerlo questo bambino, per gli esperti che hanno guardato il video sembrava abbastanza evidente, hanno preferito non addormentarlo. E hanno deciso di ucciderlo. Mi sembra facile, no? Per certi versi. Allora, la mia domanda, a me mi hanno chiamato anche a fare ad altre radio a commentare questa cosa. La prima domanda che mi sorge è: la madre dove stava di questo bambino? Peraltro in questo articolo di Mark Beckhoff lui giustamente sottolinea il fatto che alla madre non verrà addebitato nulla per questa negligenza. Cioè tu non ti puoi portare, non puoi portare un bambino a uno zoo come questo. Cioè ti cade un bambino nella fossa di uno perché zoo perché giocava a fianco alla cancellata dentro e fuori dalle sbarre dei cancelli. Vuol dire che non l'hai tenuto d'occhio. Esatto. Negligente lo sei stata, ma lei non verrà invece imputata minimamente di... Il gorilla fra l'altro ha avuto questo atteggiamento quasi protettivo verso il bambino perché gli articoli dicono che siccome c'era la folla che urlava al momento in cui il bambino è caduto dentro, il gorilla ha avuto proprio un atteggiamento di protezione, come se lo volesse scansare da quel fragore. Detto ciò, la domanda è: perché non l'hanno addormentato, hanno deciso di ucciderlo? Sì, e poi ci sono delle domande ancora più profonde, no? dopo l'uccisione di Harambe, e la più importante credo sia: perché gli zoo? Esatto, perché gli zoo. Oltretutto, dopo che è morto, la preoccupazione di tutti quanti è stata quella di prendere lo sperma di Harambe in modo da farne altri carcerati a vita, perché l'altra cosa da discutere è perché gli zoo e soprattutto perché si permette agli zoo di accoppiarsi in cattività per continuare a creare altre anime carcerate. Insomma, l'argomento è complesso, si parla di conservazione della specie, il punto è se davvero dobbiamo permettere questa interazione continua tra i visitatori di uno zoo e gli animali, che a volte ne vengono spaventati, a volte c'è frastuono, no? E altre volte capitano questa cose come questa di questo bambino qui. Beh, i sostenitori degli zoo dicono che gli zoo servono perché cultura, no? Per imparare a conoscere l'animale da vicino, però poi, ecco, se vai a fare un'indagine non si capisce che cosa impari guardando uno zoo. Ecco, allora non c'è nessuna ricerca che attesti che lo zoo abbia un valore educativo. Cioè, per valore educativo si intende quando la gente lascia lo zoo, che cosa ha imparato in seno a proteggere gli animali, a conoscere gli animali. Ecco, non c'è nessuna ricerca che attesti che effettivamente abbia un effetto educativo nei confronti dei visitatori. Anzi, vengono visti gli animali in condizioni che non rispecchiano la loro etologia. No, assolutamente e quindi no. Assolutamente no. Spesso negli animali, negli zoo soffrono di stereotipie, che è un chiaro segno di privazione. Come gli animali sensoriale. Nei circhi. Esattamente. Quindi il punto è trasformare subito gli zoo in santuari. I santuari sono centrati sugli animali. I santuari non prevedono necessariamente il contatto con le persone e si dedicano esclusivamente al benessere degli animali. Negli zoo, per esempio, un'altra cosa che succede è che quando gli animali tra di loro si accoppiano, se sono in esubero come numero, vengono semplicemente eliminati. Perché, perché non servono al programma di conservazione della specie, non servono allo zoo, e via dicendo. Sì, come i levrieri greyhound non servono più per le corse, oppure i cani da caccia quando non servono più. Devo dire che ci sono dei metodi molto sbrigativi, vergognosi da parte dell'essere umano, molto sbrigativi. Detto questo, di che cosa si parlerà oggi? Che abbiamo degli ospiti qui a fianco a noi. Oggi, visto che ci troviamo a Torino, abbiamo qui una persona che abbiamo già intervistato qualche puntata fa, che si chiama Antonia Tarantini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È la fondatrice e presidentessa sì, attualmente dell'ASLAN, che è un'associazione che si occupa di pet therapy. Quindi, fantastico, visto che dobbiamo parlare, stiamo parlando, no, fin dall'inizio della puntata, di interazione tra l'essere umano e gli altri animali, ne parliamo anche da un punto di vista reciproco, cioè far bene agli animali. E così l'animale che fa bene, che fa bene a noi. Esatto. Abbiamo poi con noi Ilaria Comolli. Non funziona il microfono di Ilaria. Allora, non funziona il microfono dell'educatrice. Schiacciatelo un po' in testa, perché la tecnologia fa dei grandi, fa delle, così, vediamo delle un grandi po' che cose. Prova. Quindi, Ilaria Comolli è educatrice in una struttura in cui c'è stato un progetto di pet therapy tuttora in svolgimento e ha ottenuto dei grandi risultati, per cui lei ci parlerà di questo. Però, siccome mancano pochi secondi, eccoci, stanno provando i microfoni nel frattempo, e questo è il bello della diretta, che non è diretta ma è registrata, però voglio dire, diciamo, il bello della diretta. Detto ciò, ci vediamo fra pochissimo, e con queste nostre ospiti si parlerà di pet therapy. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E voilà! Rieccoci! Dove siamo? In mezzo a un parco. Ecco, subito la sigletta. Cioè, fateci almeno cominciare, no? No, perché loro, la gente a casa non sa che nelle nostre pause diamo il meglio di noi con Sandra e Raimondo. Sì. Qui abbiamo le nostre ospiti che stanno ridendo. Neanche inciso, fossero io sarei Sandra e Rosita e Raimondo. Tu sei anche un po' sbirulino intanto, quindi. Allora, abbiamo delle nostre ospiti qui, però al telefono abbiamo un ospite che allora, poi dopo... Allora, sì, bravissima. Visto che si parla di pet therapy, parliamo di pet, che cos'è la pet therapy, eccetera, eccetera. Segnaliamo che è appena uscito il nuovo libro di Alberto Dal Negro, che è già un nostro amico, lavora benissimo in pet therapy, ci ha affascinato con i suoi discorsi, ha un'esperienza di oltre 10 anni in questo campo. Alberto, sei con noi, giusto? Ci senti? Ciao a tutti, sì, ci sono. Ciao. Eccoci. Allora, ciao. Il tuo ultimo libro è Il potere terapeutico degli animali? Sì, esattamente. Della Macro Edizioni. Beh, fantastico, vuol dire. Ma io posso fare una domanda banalissima a tutti voi esperti, anche ai nostri ospiti qui? Allora, Alberto, sì, eccoci. Qui con noi ci sono anche Antonia Tarantini, che si occupa anche lei di pet therapy, e Ilaria Comolli. Piacere, buongiorno. Ilaria Comolli, piacere. Che è un'educatrice di una struttura, piacere, nella quale la pet therapy si sta facendo. Quindi siete tra esperti. Perfetto. Allora, ascoltiamo qual è la domanda di Rosita Celentano. Sentiamo. Pet therapy si dice. Allora, io stupidamente ho sempre associato la pet therapy a qualcosa che facesse solo con i bambini, e invece è aperta a tutte le età, a tutte le condizioni, a tutte le situazioni, giusto? Assolutamente sì. Ma dipende dalle situazioni e dalle patologie. Però comunque va dalla prima parte della vita fino all'ultima parte della vita, ecco. Alberto, sei d'accordo? È la cosa che mi ha affascinato dal primo momento, che sia una terapia, un intervento a 360 gradi con pochissime controindicazioni, fantastico. Ah, vedi, pochissime, io pensavo con nessuna controindicazione. Qual è una delle pochissime controindicazioni, Alberto? Beh, se uno ha una fobia verso i cani è chiaro che magari è controindicato, oppure chi è allergico al pelo dell'animale, più facile verso i gatti, i conigli, anche se anche verso il cane è possibile, o se ci sono ferite aperte o persone con, diciamo, immunodepressione. Quindi sì, fate oppure attenzione a questi pochi casi, per il resto è praticamente. Sì. Oppure se fai uno scherzo, se fai giocare uno cardiopatico, diciamo, con un golden retriever bello attivo, diciamo che non è che stai facendo proprio del bene. Non stai facendo una pet therapy, diciamo, insomma, così. Esattamente, sì. No, benissimo. Allora, perché questo libro sulla pet therapy, Alberto? Perché da 13 anni a questa parte io sto assistendo giornalmente a delle piccole trasformazioni. Uh-huh. E infatti il libro in origine si doveva chiamare Il potere trasformativo degli animali, uh-huh, però poi l'editore ha scelto questo terapeutico, che però è particolarmente adatto per quello che è il messaggio poi che mi sono ritrovato a voler mandare con questo libro. Uh-huh. Terapeutico deriva dal greco, che vuol dire da tecnè e terapeuto, che vuol dire l'arte del prendersi cura. Perché quello che fa l'animale è proprio è un artista da questo punto di vista, perché riesce a prendersi cura, ma non dei bambini difficili, il potere trasformativo, il messaggio finale è quello. Osserviamo tante piccole trasformazioni, anche tante grandi trasformazioni nei confronti di tutti, ma non c'è la voce che va e viene però. Trasformazione. Adesso come va? Meglio? Meglio, meglio. Mi avvicina un po'. Meglio. Ok. Effetto. Non è che non va bene. È come quando, Antonio, capito, si telefona alla nonna, che tu dici, la nonna ti parla, dice, ma non t'ho sentito. Adesso come mi senti? Perfettamente si sente. Poi dopo invece... Allora, quindi dicevi invece che prendersi cura, giusto? Esatto. So che il libro è composto da delle storie, o mi sbaglio? Sì, ci sono circa una ventina di storie dove c'è la situazione con il bambino, con la paralisi cerebrale infantile, o il ragazzino autistico, o la persona con grave disabilità, o l'anziano con l'Alzheimer. Ci sono storie di diverso tipo, che sono, diciamo, fra le storie che mi hanno personalmente toccato maggiormente. Più ci sono anche un'altra dozzina di micro storie, quindi episodi più... Okay. E per te perché è stato importante raccontare il potere terapeutico attraverso le storie, non semplicemente raccontarlo tipo come fosse un saggio, no? Con una serie di punti elenco, no? Perché tutti scrivono siccome l'animale lavora sul mondo emozionale in primis, quello che dalla storia io cerco di tirar fuori è proprio quello che ti rimane finito l'intervento. Quindi cioè, visto non è che... un modello che voglio trasferire, ma quanto quello che resta a chi fa questo tipo di mestiere. Infatti noi ricordiamo che Alberto ha già interloquito con noi di Radio 24, c'è un suo podcast che potete recuperare. Un podcast. Un podcast. C'era un'interferenza. Certo. Ci abbiamo tutta la giornata di interferenza. Il podcast era nella sezione del podcast di Radio 24. Non mi fare impappinare già. Che... A me piace nella sezione dei podcast di Radio 24. Allora, tu ci spiegavi che il tuo particolare modo di fare pet therapy nel tempo si è trasformato appunto in, cioè, basandolo sulle emozioni, giusto? Sì. Cioè un destrutturare anziché strutturare, fare in modo che il cane abbia maggiore libertà basandoti su un intervento empatico, no? Una sorta di empatia operante. Sì. Esatto, in cui soprattutto noi operatori, ma anche i referenti dei bambini, delle persone, devono togliersi dalla mente qualsiasi aspettativa. Quello che succede, succede in quanto noi non ci mettiamo troppo del nostro. Uh-huh. Questo è essenziale. Ah. Senti, ma quanto può aiutare un libro? Chi non sa niente, chi non ha una persona da seguire e decide di comprare il tuo libro... quanto può aiutare già attraverso un libro il fatto di iniziare a capire se uno c'ha un animale in casa piuttosto che non? Dal libro, da come l'ho impostato io, uno scopre sicuramente, chi ha un animale come dici tu, quello che è l'immenso potenziale dell'animale. Purtroppo ci sono dei momenti, è sparito Antonio. Ah, è proprio caduta la linea. Vabbè, proviamo a richiamarlo. Intanto sentiamo, voglio dire, volevo sapere. Sei d'accordo, Antonia? Vuoi contraddire quello che ha detto? No, assolutamente no. Vedi, l'aria aperta, fare la radio all'aria aperta è come se noi avessimo sniffato qualcosa, un po' di marijuana, diciamo, che non fa mai male. Ma c'è proprio uno qui sotto che sta arrollando. Comunque, dai, Antonia, Antonia Tarantini, ricordo, è con noi. Sì. Anche lei ha un'associazione di petere che si chiama Aslan. Sì. Cosa ti piace quello che ha detto Alberto? Ma è bellissimo questo concetto del destrutturare. In realtà, quando si va in seduta, molto spesso è il cane che guida l'operatore nel Fantastico. Lavoro, perché il cane si sintonizza con la persona e riesce a percepire delle cose che noi non siamo in grado di percepire. Per esempio, a me succede così con il mio Noah, il mio Golden Retriever, a volte è lui che guida me. Ci sono dei momenti dove io guido lui, è ovvio, però è bellissimo questo scambio. C'è questo scambio costante. Sì, questo scambio, questa empatia che si crea tra, insomma, tra il cane e il coadiutore per portare beneficio alla persona. E quindi sì, anche Antonia destruttura. Alberto, esatto. Dal Negro mi sembra sia di nuovo in linea con noi. Alberto, ci sei? Sono sì, in linea, okay. E condivido quello che ho sentito molto al 100%. Senti, bene, allora guarda, io sono curiosissima, non vedo l'ora di sfogliare, di leggere, perché io poi sai, sono una gran rompiballe, quando scopro qualcosa di interessante sono tacente, come dicono in Veneto, a tutti dico scoperto questa cosa, la pet therapy, prendi sto libro. Allora consigliamo il tuo libro Il potere terapeutico degli animali, macro edizioni. E chissà, magari ci sentiremo sicuramente qualche altra volta in radio. Sì, sì, abbiamo bisogno di approfondire con Alberto qua. Io ci sono. Bene, grazie Alberto di essere stato con noi. A presto, grazie a voi. Buon lavoro. Ciao. Saluti a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. E invece io ti volevo sapere, Ilaria, sì, che fai tu? Io lavoro come educatrice. Dove? Al Buon Riposo, che è una, sì, una residenza per anziani che si trova a Torino Sud. Beh, ma Buon Riposo, io penso, distinto, la leggo una cosa dolce. Cioè il riposo per me è qualcosa di rigenerante, non inteso come buon riposo invece... Buon riposo. Speriamo di no. Invece tanti la intendono, insomma, non è un nome molto amato. Perché comunque tu dici ci sono gli anziani e allora, sì, come dire, l'eterno riposo, no? Diciamo che alcuni lo associano a quello, però noi facciamo di tutto perché non sia così, insomma, perché invece sia proprio un buon riposo nel senso di bello, buono, allegro. Esatto, infatti Laria è qui con noi perché è educatrice in questa struttura e ha seguito uno dei progetti di Pet Therapy fatti dall'associazione di Antonia, giusto? Esatto, abbiamo avuto questa fortuna immensa di incontrare Antonia e i suoi collaboratori e i suoi cani meravigliosi. E che cosa ha generato questo incontro? Ma guarda, innanzitutto un sacco di risate, di gioia. Che non fanno mai male, che anzi. In un posto come una residenza per anziani è qualcosa di abbastanza straordinario, perché le case di riposo sono posti abbastanza complessi, sia per chi ci vive che per chi ci lavora, che per chi ci passa, insomma. E quindi questa occasione, come dico io, è un'occasione di vita, proprio di nuova vita, perché sì, perché l'incontro col cane è veramente magico. Ma ti viene in mente, scusami, ti viene in mente un aneddoto particolare di un incontro di un anziano con un cane? Ma noi abbiamo una signora che, diciamo, è abbastanza sofferente, vive proprio con disagio e la permanenza in casa di riposo, e lei adora questi cani, li chiama i miei cani. Cioè, per un anziano che vive in un posto del genere dove non si può più tanto avere la percezione di possedere qualcosa, di avere dei legami, è un po' un non luogo la casa di riposo. Noi cerchiamo di renderla casa, grazie anche ai cani, il contributo dei cani, però è difficile. Cioè il fatto che un'anziana ci chieda dei suoi, dove sono i miei cani, quando vengono i cani, no? Certo. Mi ricorda molto quella ricerca che avevamo letto tempo fa sul fatto che le persone si dispiacciono di più quando muore un bambino, un anziano, un animale, per il fatto che sia caratterizzato questo essere da innocenza. Sì. Allora, io credo, per esempio, che bisogna tornare a vivere nei villaggi. Non so se è utopica questa roba qua, forse è difficilmente realizzabile, ma nel villaggio il bambino e l'adulto hanno bisogno della saggezza dell'anziano e l'anziano ha bisogno della pragmaticità dell'adulto e dell'innocenza, della gioia che possono portare i bambini e gli animali. Io credo che questa cosa qua riproduca invece, cioè il fatto di mettere tutti gli anziani tra di loro e basta, invece necessiti di nuova energia, di nuova linfa. Invece i cani possono portare... Pensa che io... Quindi, quando avevo 30 anni mi sono fatta un bel 6 anni di psicanalisi, andai dalla mia analista e le dissi perché vorrei creare un posto dove mettere assieme i ricoveri per anziani assieme agli orfani e ai bambini, perché il bambino nell'anziano trova un nonno, un affetto, e il nonno si risente vivo stando vicino a questi bambini. Ovviamente mi hanno detto che per interessi diversi sarebbe stato difficilissimo realizzarlo, ma chissà. Adesso facciamo un'altra pausa e poi continuiamo a fare queste chiacchiere interessantissime sulla pet therapy. Torniamo subito. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Dal 17 al 25 giugno Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Comunque, sei felice? Comunque, sì, molto. Quest'area friccicarella, stare all'aperto, a me in mezzo al verde piace sempre. Anche se diamolo, siamo al salone dell'auto, al Parco del Valentino a Torino. Su un'amaca? Su un'amaca, magari. Con due bei mulatti che mi sventolano. Due bei mulatti. No, tu hai fatto il gesto. Allora, il professor Vara ha fatto il gesto di due ciocce. Tu l'hai fatto. Io ti ho ricalcato e basta. Tu hai detto con i tuoi bei mulatti. Ma i mulatti con le tette. Siete testimoni voi due, Ilaria e Antonio. Chi ha fatto così per primo? Ma non intendevo. Ma voi avete inteso due tette e due mulatti, scusate. No, io ho inteso così. Ascolta, tu però prima tu il gesto hai parlato l'hai fatto. Delle gnocche a fianco alle macchine. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Siamo seri, che parliamo di argomenti seri, allegri, però, di felicità. Bravissima, dicevamo che i cani portano gioia nelle strutture, nelle residenze infatti, per anziani. Io e te siamo così perché siamo pieni di cani, eravamo depressissimi. Sì, infatti. quindi dicevamo... Allora, invece al telefono abbiamo con noi Marina, giusto? Pronto? Sì, pronto. Ciao Marina. Allora, dovete sapere, per chi ci ascolta, prima stavamo parlando di questa residenza per anziani che si chiama Buon Riposo. Allora, Marina è la figlia di Carla e Carla è una delle signore che in questa struttura è contenta che arrivino i cani. I no? suoi cani. Il progetto di Pet Therapy, no? Giusto, Marina? Sì, assolutamente sì. Molto contenta sia la mamma che la figlia. Cioè, anche tu, no? Ma tu li hai visti all'azione, questi cani? Sì, sono... Pronto? Sì, pronto, ci siamo. Sì. Te li hai visti all'azione questi cani? Io li ho visti solo una volta all'azione, però poi ho sentito i commenti di mia mamma che pur essendo una donna di 92 anni, pur avendo una demenza senile abbastanza in grado avanzato, direi che è la cosa che più gli è piaciuta fare all'interno del suo percorso alla Buon Riposo. E che cosa ti raccontava? Guarda, mi raccontava della dolcezza dei cani, del fatto che questi cani siano così disponibili, che siano così attenti alle persone anziane, che si lasciano accarezzare, che siano ubbidienti, siano partecipi a tutte le attività che vengono proposte. Fantastico, no, perché ricordiamolo, no? Qualche volta ne parliamo, uno dice perché il cane? Beh, uno degli insegnamenti che i cani ci danno è l'amore incondizionato, certo, ovvero... Sì. Io ti accetto così come sei, che tu sia giovane, anziano, ricco, povero, grasso, bello, magro, brutto. Ti accetto così come sei, giusto Marina? Questa è la sensazione sì, quindi assolutamente che sì, assolutamente. Loro non fanno assolutamente differenza tra una persona che può essere sgradevole, una persona seduta sulle sedie a rotelle, una persona che ha bisogno di essere accompagnata, una persona che magari in questa struttura può essere anche un po', passatemi la parola, abbruttita dal fatto di rimanere lì, di rimanere da sola, di non avere i parenti che la vanno a trovare. I cani sono sempre disponibili veramente a tutte le persone e a tutti quelli che gli stanno intorno. Ma ascolta Antonia, tutti i cani possono fare questa cosa? No, non tutti i cani possono fare questa cosa. Devono avere delle predisposizioni di base fondamentali, tra cui il contatto, l'amore verso il contatto umano. Il cane deve avere un'educazione e una preparazione che va di pari passo con la preparazione del coadiutore del cane. Che sarebbe la persona che vive col cane anche. Sì, che vive col cane, assolutamente. Quindi c'è da fare proprio un percorso. Cioè, se io prendo dei cani, ovviamente ci sono dei cani più disponibili, no? Già predisposti caratterialmente a seconda delle differenze delle razze, dottor Vara mi insegna. Giusto. Intanto io non insegno a nessuno, tantomeno a lei. No, quindi voglio dire, diciamo il Golden Retriever piuttosto che il Labrador sono i cani tipici, no? Sì, perché loro geneticamente si portano dietro un bagaglio di generazioni. Di pazienza, di dolcezza, di docilità e quindi sono predisposti per questo tipo di lavoro. Però non è detto che anche un meticcio non possa essere adatto. Certo. Ecco, ma infatti allora adesso tornando un attimo seria alla domanda che pertinentemente la Rosetta Centano ha fatto. Ci sono delle differenze tra le razze, tendenze comportamentali differenti, per cui noi ci possiamo aspettare per esempio da un boxer un comportamento che sarà probabilmente diverso da quello di un border collie, di un molosso, di un levriero, via dicendo. Però non dobbiamo neanche dimenticare, perché ci sta ascoltando a casa e ha un cane in casa, che effettivamente ci sono delle differenze anche individuali, certo, cioè appartenere ad umani. Esatto, appartenere ad una razza non significa certezza su quella tendenza comportamentale. Quindi tu ti puoi trovare, per esempio, un Doberman che è socievolissimo con le persone, ama molto il contatto, e magari un Labrador che invece il contatto fisico non lo sopporta. Certo, sì, poi c'è anche andare nello specifico a seconda del... ma come gli esseri umani. Sì, sì, c'è un connubio tra la genetica e le caratteristiche personali. Quindi diciamo che, allora, se io avessi, a un certo punto, che ne so, ho una mia nonna, purtroppo io le nonne non le ho più, che ha delle patologie, io adoro i cani, decido di prendere un cane, posso io fare un percorso di pet therapy col mio cane per vivere questo beneficio in casa con la nonna che vive con me? Allora, o bisogna no? stare un sempre po' troppo molto casalingo. Esatto, bisogna sempre stare molto attenti. Conta che la pet therapy viene fatta in equipe. Ah. C'è un'equipe multidisciplinare. Ci sono delle linee guida nazionali che sono diventate legge nazionale, che disciplinano per fortuna la pet therapy proprio per evitare un po' queste soluzioni casalinghe. Posso dire una cosa? Noi educatori cinofili ci troviamo a volte ad intervenire in situazioni di emergenza causate dallo psicoterapeuta o dal pediatra o dal medico che ha suggerito alla famiglia che ha all'interno un problema, può essere la signora anziana, può essere il bambino con difficoltà d'apprendimento, può essere il bambino autistico e via dicendo, e gli dice, sì, adottate un cane perché così fate pet therapy. Ecco, sì. E questi qua si trovano a dover già gestire un problema, una situazione a casa che è drammatica ed è difficile da affrontare. In più se ne aggiunge un'altra, perché non è detto che quando tu adotti un cane in casa le cose vadano meglio. Ma certo, ovvio che non è che uno compra un cane, lo parcheggia in casa e quello è pet therapy a prescindere. No, ma a volte ti può capitare così come capita nelle adozioni. Magari un cane che ha dei problemi anche comportamentali, perché è lecito, succede. Certo. E allora tu devi, quando adotti un cane, ti prendi carico anche di questa eventualità. Il fatto è che se ti capita in una situazione così, purtroppo i problemi si moltiplicano. Allora, più intelligentemente, quello che bisogna fare quando a uno psicoterapeuta che ci sta sentendo, un medico o queste figure professionali, gli venga in mente che la pet therapy possa essere una soluzione, di contattare un esperto in pet therapy che possa valutare la situazione e stabilire, giusto Antonio, esatto, magari sì, questo sono, è l'iter. Sono d'accordo assolutamente, anche perché bisogna salvaguardare anche il benessere del cane. Assolutamente, perché senza sì. il benessere del cane non può esserci la magia della pet therapy, sostanzialmente. Quindi sì, sono d'accordo. Quindi Marina, che ci sta ascoltando, sa quale complessità c'è dietro, ha visto? Sì, assolutamente sono d'accordo, perché non tutti i cani forse sono adatti e bisogna assolutamente educarli perché si avvicinano a queste persone. Devo dire che mia mamma è stata abbastanza facilitata in questo, perché noi avevamo già un cane in casa e questo cane è stato di un'utilità incredibile, ha fatto pet therapy senza averla fatta quando è mancato mio papà ed è stato veramente un cane guida per mia mamma caso. No, c'è da dire, quindi... vedi, perché Rosita giustamente dice, quindi che cosa succede? Ci sono delle volte, anzi succede spesso, che il cane di casa ti aiuta a superare dei lutti, a superare difficoltà e via dicendo, no? Sì. Il fatto è che non bisogna farne una regola, quindi prima di chiedersi, interveniamo con un cane, cioè lo poniamo dall'esterno per risolvere una situazione, bisogna invece andarci oculatamente. Certo, assolutamente sì. Devo dire che appunto per la mia esperienza il cane era già in casa, quindi aveva già fatto tutto il percorso di inserimento all'interno della nostra famiglia quando è capitata questa cosa. Però sicuramente non bisogna pensare di prendere un cane esterno e di fargli fare pet therapy, sia un anziano, sia un bambino con handicap, qualunque esso sia, senza la consulenza, l'esperienza è vostra che può guidare in qualche modo. Devo dire che l'esperienza mia all'interno del buon riposo è stata eccezionale. Mia mamma, di tutte le cose che fa, quella che più ricorda con facilità è quello che fa lei col cane. Sono immensamente felice. Grazie Marina. Arrivederci, buona giornata. Ciao. Mi fa venire in mente una cosa, Antonia, sì. E cioè al fatto che la pet therapy, insomma, questi interventi da parte degli animali dovrebbero essere inclusi tra quel genere di cure, tra virgolette, che sono necessarie, sono sì. fondamentali. Sì. No, per, sì. In questo caso per gli anziani, no? In residenza, però ci sono anche altre, altri esempi, no? Tu non lavori soltanto... No, non lavoriamo soltanto con gli anziani, anche con i bambini che hanno malattie rare. Mm-hmm. Inizieremo un nuovo progetto dopo l'estate, settembre-ottobre. E poi abbiamo un altro grande progetto con un'associazione importante di Torino, che è Piemonte Cuore Onlus. Loro si occupano di defibrillatori. Insegnano, vanno nelle scuole a insegnare ai bambini come si usa il defibrillatore. Perché, ai bambini. Sì, perché anni fa è morto un bambino, Lorenzo, in una scuola e quindi da lì è nata questa idea. Ma bambino di che età? No, perché era piccolo. Volevo fare un corso anche di defibrillatore, mi sono sbagliato. devi mollare, io sicuro non mollo. E loro vanno nelle scuole a insegnare ai bambini. E allora Marcello Segre, che è il presidente... Quindi questa Onlus si occupa solo di questo aspetto, cioè insegna a usare il defibrillatore, cioè è il bambino che deve saperlo usare. Sì, esatto. Quindi io sono andata con loro nelle scuole, Marcello Segre, che è il presidente di Piemonte Cuore, mi ha chiamato e ha detto: come possiamo coinvolgere il cane in questo progetto? Allora da lì è nato il connubio tra Aslan e Piemonte Cuore per portare il cane all'interno delle scuole quando i bambini devono usare il defibrillatore. Il cane in pratica sarà un veicolo di apprendimento, perché per usare il defibrillatore bisogna seguire una procedura complessa. Cioè, è stato difficile per me in quel momento. Guarda, ho detto: cavolo, prima bisogna fare questo, poi bisogna schiacciare questo. Il bambino lo responsabilizzi un po' troppo, non lo si responsabilizza un po' troppo presto, che se sbaglia poi dopo magari si sente come quando i Tamagotchi morivano e i bambini più sensibili andavano fuori di testa. E in realtà è stata una cosa molto costruttiva, perché qualche tempo fa una signora ha avuto un infarto a casa e il bambino sapeva esattamente cosa fare, bellissimo, perché aveva fatto il corso con fantastico. Loro. E quindi sì, ci stanno chiamando. Ci stanno chiamando la conferenza stampa. Ah, a me proprio. Cioè, sì. Conferenza stampa da parte di una delle... Intanto, se voi non li potete vedere, ma ve li raccontiamo noi, ci sono dei cani fantastici che stanno giocando qui sul praticello. Ci hanno raggiunto, siamo contenti. Allora, vi lasciamo per qualche minuto e torniamo tra poco con Rosetta Celentano, le nostre ospiti, a parlare di Pet Therapy qui a Chiedimi se sono felice su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Sono felice perché adesso... Sentite? Ma infatti stavo dicendo, sei felice nonostante la pioggia? Sta benissimo qui, siamo a Torino al Parco del Valentino, ha cominciato a piovere, abbiamo chiesto ai nostri amici cani, perché fuori c'erano dei cani, di entrare nel nostro track di Radio 24, di venire su, potete venirci a trovare. E allora, eravamo alla ricetta, allora con la nostra vet nutrizionista, cuoca particolare, Mara Di Noia, parte la nostra rubrichetta Piatti e Ciotole. Piatti e ciotole. Mara. Ciao Mara. Ciao, ciao a tutti. Mara Di Noia è qui con noi, che ci fornisce una ricetta che va bene per esseri umani e per cani contemporaneamente. Cosa ci hai preparato per oggi? Allora, per oggi vi propongo una ricetta che ho chiamato Tartufi Super Energy, per quei momenti in cui abbiamo bisogno di una ricarica dopo aver lavorato, sia noi che i nostri cani. Ah, vedi, quindi è perfetto per la pet therapy. Cioè, voi quando lavorate con i cani, andate nelle residenze per anziani, negli ospedali, dove ci sono i bambini, quando avete finito vi mangiate questa roba di Mara Di Noia insieme al cane. Sentiamo, grazie. Esatto. Allora, vi occorrono 115 grammi di fagioli zucchi secchi, 75 grammi di noci e 6 datteri, un cucchiaino di sciroppo d'acero, un quarto di cucchiaino di vaniglia in polvere, un pizzico di sale e 140 grammi di anacardi. È una ricetta da preparare con un po' di anticipo, come quando si usano i legumi secchi. Quindi mettiamoli a bagno per 4 ore, bisogna scolarli, cambiare l'acqua almeno 3 volte e cuocerli in acqua pulita per almeno un'ora. Scolarli e farli intiepidire. Questi fagioli vanno poi tritati con le noci, i datteri, lo sciroppo d'acero, la vaniglia e il pizzico di sale, che esalterà il sapore dolce. Cioè tutto assieme, si trita tutto assieme? Sì, sì, sì. Okay. Si trita tutto assieme fino a ottenere un composto liscio. Se risulta troppo asciutto potrete aggiungere un goccio d'acqua. È una ricetta semplicissima, a parte la preparazione. Prelevare un cucchiaino di composto, formare delle palline, otterrete circa 12 bonbon. Bisogna rotolarli nel composto di aracardi e farli riposare per una mezz'oretta prima di saltarli addosso, praticamente. Come di inghiottirli, così come... Esatto. Ah, per quello si chiama... Per quello si chiamano tartufi, perché non c'è il tartufo in realtà, ma sono... Fanno... Non c'è il tartufo, ma hanno un colore che ricorda il cioccolato. Ricordiamo che ai nostri cani il cioccolato è vietato. Certo. E abbiamo l'occasione per formare, per fare dei dolcetti che vanno bene per tutta la famiglia e che possono essere proprio una coccola adatta a tutti. Sono molto proteici perché comunque i fagioli, soprattutto gli azuchi, che sono questa varietà piccola e molto concentrata di sostanze nutritive, ci danno tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi senza problemi possiamo sperimentare in cucina delle ricette adatte a tutti. Bene, quello che volevo dire, che solamente essere, capire bene io, è che questo è un dolce, non è una pietà, un primo, un questo secondo. Questo è un, come possiamo chiamarlo, una coccola post-lavoro. Una coccola post-lavoro, perfetto, grazie Mara. È anche un dolce. Perfetto, grazie Mara, grazie, noi ci Mara sentiamo domenica prossima. Grazie a voi. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao a tutti. Cioè quella cosa che tu dici, Agnè, non è proprio fame, no? È più voglia di qualcosa di buono. Allora ti fai questi, come te li ha chiamati? Coccole. Coccole al tartufo. Al tartufo, coccole al tartufo. Allora, tornando con le nostre graditissime ospiti, Ilaria e Antonia. Allora, sì. Stavamo discutendo prima, fra una pausa e l'altra, il costo di una cosa come questa, Ilaria. Ma a noi è stato regalato, nel senso che Antonio un giorno mi ha chiamata e mi ha detto: guarda, abbiamo ricevuto, ottenuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi della Stampa un finanziamento per un progetto e nelle case di riposo, e tra le case di riposo che abbiamo individuato ci siete anche voi. Ah, fantastico, sì. Da lì è partita la... Allora dobbiamo ringraziare la stampa. Esatto, sì. Questa fondazione che è stata sensibilissima a recepire un'idea allora, nuova. Fondazioni in ascolto, voi che date denaro così generosamente, sappiate che il mondo della pet therapy vi aspetta, visto che genera così tanti buoni risultati. Sì, l'altra cosa che dicevamo, che a me piacerebbe, che quando ci sono associazioni, io e Angelo abbiamo la fortuna, da quando lavoriamo anche a Radio 24, di incontrare tante persone, tante associazioni che si mettono in prima linea proprio per cercare di migliorare il rapporto uomo-animale, sarebbe bello che ci fosse una sorta di gemellaggio fra le varie associazioni, no? Invece che ognuna lavori da sola, perché intanto l'unione fa la forza. Certo. Portare avanti un progetto del genere, cioè se ci fosse una mappa in tutta Italia di tutte le associazioni che si uniscono, per esempio per la pet therapy, come ci possono essere mille altre, quelle che abbiamo parlato che aiutano, che salvano i cani in Spagna, i levrieri, pet levrieri, cioè bisogna mettersi assieme, questo è fondamentale, non bisogna fare una gara chi è meglio, chi è peggio, bisogna unirsi, perché solamente l'unione fa la forza per aiutare veramente a ingrandire a macchia d'olio la sensibilità delle persone verso gli animali. Comunque io sono a disposizione, Angelo credo pure, assolutamente sì, Radio 24 pure, perché ci dà la possibilità di avere sempre questo spazio per parlarne, quindi facciamo cordata. Certo. Cioè se ti viene in mente, Antonia, o sì, qualcuno, sì, ci sono persone molto valide nell'ambiente, creare gemellaggi sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo anche con le case di riposo, cioè certo. Dobbiamo assolutamente creare una rete, facciamo una attraverso chiedimi se sono felice, chiocciolaradio24.it. pensa che Rosetta, tu stai parlando di una cosa, che di una nuova scienza che si chiama la scienza dei sistemi emergenti, ecco. In cui si studia che praticamente è una massima che già la psicologia della Gestalt teneva bene a mente, cioè il tutto è maggiore della somma delle parti. Cioè una serie di associazioni, vuoi di pet therapy, vuoi di anche tutti gli appassionati del mondo animale, così come ne stiamo intervistando tanti, noi quest'anno ne abbiamo intervistati tanti, quando uniscono le forze creano una entità che ha delle proprietà maggiori rispetto ai singoli, ecco. E quindi io credo che questo allora sia lanciamo questa cosa attraverso la radio, diciamo di farlo attraverso di noi, attraverso Angelo e me, attraverso Chiedimi se sono felice, visto che è un media molto importante la radio, fra l'altro è uno di quelli che a me piace di più. Diciamo di scriverci a tutti quelli che vogliono gemellarsi, per esempio la pet therapy, vogliono incontrare te, Antonia, certo, o avere un contatto con te, sì. Per la pet therapy o per qualunque altra cosa, cioè ci scrivessero per dirci: noi vogliamo, abbiamo sentito in radio questa persona che ha creato questa associazione sulla pet therapy, così creiamo contatti, noi, facciamo noi da trade union, come si dice in francese. Fa parte poi della logica della pet therapy, che si lavora in equipe, la rete, il sistema, ognuno di noi porta un contributo diverso. Io per esempio mi sto specializzando nel settore degli anziani, ci sono altre persone che sono bravissime con i bambini. Certo. E quindi... Però, per esempio, io mi immagino l'Italia, no? Che questo stivale certo. è meraviglioso, fra nord e sud, se ci fosse una rappresentante, tu sei qui nella zona del Piemonte, certo. a sud, che ne so, in Puglia, piuttosto che in Calabria, piuttosto che... se ne crea un altro, voi portate avanti assieme delle cose attraverso i social. Adesso è facile condividere sì, sì. informazioni, condividere specializzazioni o cose di questo tipo. Ma il problema vero è il sovraffollamento, come quando metti assieme tanti cani. Cioè il problema è quando sorgono le stesse associazioni nello stesso territorio. Ci azzecca, perché non sì, essendo stesse, tu ma no, ma bisogna scegliere dentro queste cose, non ti rendi conto che quando tu vai la stessa associazione nella stessa città, ci possono essere dei problemi, sì. almeno che non metti da parte appunto l'ego e la competizione, e allora ti metti a cercare di capire come sì, cooperare. Sì, ma uno dei lavori sta nel fatto che Antonia, che noi conosciamo, e noi e io e te diventiamo garanti del fatto che lei sia una persona onesta, sia una persona come si dice, che segue i metodi gentili, i bisogni degli animali, non può che riconoscere un'altra associazione come questa. Non credo che lei si associ mai con un César Milan della Pet Therapy. No. Certo. Quindi va da sé, e quindi diventa anche una selezione naturale spontanea, no? Certo. Quindi io la lancerei attraverso la radio. Anzi, benissimo. L'ho lanciata. Wow. Cosa hai da dire contro César Milan? Non ho capito. Che è un pirla, perché mi arriva un'altra querela. Allora, e ho detto poco. Hai detto poco. No, allora, sostenitore di César Milan, scriveteci. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, che vi diamo voce, scambiamo due chiacchiere, no, sui metodi di César Milan. Però a parte questo, vedi che ci stiamo facendo pubblicità pure a questo signore. Io non sto facendo. Non mi va più il microfono. Non ti va più il microfono? Allora, ecco, in diretta, sappiate, non va più il microfono di... No, arriva di nuovo. Arriva, no, dicevo, io non sto facendo pubblicità. Sto dicendo che, per certo, è una persona disonesta, perché usa metodi coercitivi pesantissimi con i cani e con gli animali. Però, César Milan, stavo usare parlando. Metodi coercitivi perché tu non hai altre opzioni, sei poco formato, non significa essere disonesti. No, no, ma lui le altre opzioni ce l'ha, ma non le usa. No, lui non ce le ha. Ah, non ce l'ha perché non ha condizione. Non ha condizione. Allora. Sì, ma c'è anche chi la condizione non vuole averla per giustificare ma certe non cose. Non sappiamo. Beh, insomma, c'è chi è nazista nell'animo e che cavoli, insomma, non mi piace. Posso dire che non mi piace César Milan? Sì, quello lo puoi dire. C'ho sempre qui. Io ho due, facciamo, il diavoletto. Siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conoscete tutti César Milan qui dentro? Siamo in tanti. Conoscete César Milan? Mi piace? Vedi, bene. Qui dietro non neanche lo conosco. Cioè, chi se lo caga chi César Milan? Chi conosce il mondo dei cani sa. Comunque, detto ciò, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it per chi volesse veramente iniziare una sorta di vari gemellaggi tra nord, sud, le isole est, ovest d'Italia, e poi si va anche oltre l'Europa. Grazie a Rosita Celentano che è qui con noi, grazie a Antonio Tarantini, grazie. Ilaria Comolli, grazie, grazie ad Angelo Vaira, grazie ad Angelo Vaira che è qui con noi. Dov'è? E grazie perso. A tutti i cani che sono grazie venuti a ai nostri cani che sono qui, grazie al parco qui di Torino meraviglioso, e grazie a Radio 24 per questo fantastico spazio che ci lascia. Grazie a Graziella, grazie. E ci... Per favore, abbiamo chiuso in bellezza. E stiamo chiudendo in bellezza. Sì, ragazzi, infatti, non perdete. Chiedimi se sono felice tutte le domeniche a mezzogiorno.